Ora tocca a lui trovare la quadra nel paese della transizione infinita. Franco Marini raccoglie il testimone che fu per ultimo di Lamberto Dini, chiamato a sostituire Silvio Berlusconi nel 94, quando il primo governo guidato dal Cavaliere cadde. E ritengo quindi di dover procedere alla immediata convocazione del Consiglio dei Ministri per poi eventualmente recarmi dal Capo dello Stato. Vi ringrazio e la ringrazio. Chiamato Dini ad un compito difficile, non solo quello di varare la finanziaria, non solo quello di approvare un'imponente riforma pensionistica, ma anche, giusto appunto, di condurre il Parlamento all'approvazione delle riforme istituzionali. Niet! Dini si dimette ai primi di gennaio, appena varata la manovra, e con lui se ne va il primo governo della storia italiana senza nemmeno un parlamentare. Il presidente Scalfaro sceglie di affidare un incarico ad Antonio Maccanico. Il tentativo, ancora una volta, è quello di fare le riforme. Come sia andata? Ce lo racconta lui stesso. AN riteneva che il mio schema non fosse sufficientemente ispirato al sistema francese. Loro volevano l'accettazione del semipresidenzialismo francese. Ed io naturalmente avevo difficoltà perché altre forze politiche su questo punto non erano d'accordo. Questa fu la ragione formale per la quale non fui. Poi alle riserve del partito di AN si aggiunsero anche quelle di Casini e Mastella, che allora stavano insieme. E per cui Berlusconi mi disse: se fosse stato solo per Fini, forse sarei riuscito a convincerlo, ma con gli altri due per me è impossibile andare avanti. Le forze politiche del centrodestra volevano andare alle elezioni perché pensavano di poterle vincere. Chi riuscì in parte nell'intento fu Carlo Azeglio Ciampi, 3 anni prima, ma certo i tempi erano diversi. L'allora governatore della Banca d'Italia fu chiamato da Scalfaro a far uscire la politica dalle secche di Tangentopoli e con la vittoria dei sì al referendum a spingere il Parlamento ad una riforma della legge elettorale in senso maggioritario, il cosiddetto Mattarellum. Ma Ciampi fece anche di più. È a lui che si deve la nascita del metodo della concertazione e l'inaugurarsi della stagione della politica dei redditi con la firma del protocollo del luglio 93. Accadeva 15 anni fa, ma a quanto pare la transizione iniziata allora non si è ancora compiuta. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore.